sentiamo prima le due relazioni e dopo facciamo la discussione su tutti e tre. Dopo la prima conferenza di professor Corsini facciamo un piccolo intervallo e anche dopo la seconda, e prego già adesso di non allontanarsi troppo, così, perché abbiamo un programma abbastanza denso. Allora, io vorrei ringraziare a tutti e due i relatori e dare il mio benvenuto, e prego professor Corsini di prendere la parola. Grazie. Se mi consente, signor Presidente, per dire prima di iniziare che la Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, che ho l'onore di presiedere, avrebbe avuto piacere e sarebbe stato anche sua intenzione di fare un omaggio a tutti i presenti a questi lavori di uno studio che è già in stampa e che è dovuto al dottor Schober, che pubblicheremo bilingue e che riguarda in particolare i progetti di autonomia per il Trentino nelle trattative tra i cattolici conservatori tirolesi e i cattolici nazionali trentini, con il Catra, con il Conci, con tutti questi uomini che hanno avuto primaria importanza nello sviluppo politico delle questioni che sono in parte oggi oggetto di queste nostre relazioni. Disgraziatamente, per motivi sempre comprensibili, non si arriva mai a tempo fra tipografia e traduzione eccetera, non abbiamo potuto farlo, ma assicuro che la società prenderà nota degli iscritti regolari a questo convegno di studi e avrà proprio piacere di inviare a tutti l'omaggio di qui a un mese e mezzo, quando il volume sarà uscito. E ringrazio naturalmente il dottor Schober per questa sua fatica. Il Trentino è inteso nella sua estensione territoriale attuale, abitato da popolazioni di lingua e cultura italiana, era stato anche prima del secolo XIX in stretta connessione politica, amministrativa e parzialmente anche militare con la contea del Tirolo e con gli Asburgo. Quegli Asburgo che della stessa contea erano divenuti signori feudali ancora nel secolo XIV, nel 1363. Dal tempo di Massimiliano I essi possedevano già direttamente il Trentino meridionale, quel distretto che venne poi nominato distretto ai confini municipi o distretto ai confini d'Italia. Ma quei nessi con il Tirolo e con gli Asburgo, fino alla concitata epoca napoleonica, avevano carattere e figure giuridiche di rapporti feudali tra un principato vescovile, che era immediato dell'impero romano-germanico, e la sovranità imperiale, che era divenuta di fatto ereditaria degli Asburgo e che erano anche conti del Tirolo. Fu solo all'inizio del secolo XIX che il Trentino fu trasferito territorialmente nella sovranità degli Asburgo e nei loro possessi diretti, con la Convenzione di Parigi del 26 dicembre 1802. Il 4 febbraio del 1803, corro rapidamente su queste alcune premesse necessarie, premesse di fatto, Francesco II pubblicava da Vienna la patente di annessione in forza di un trattato bilaterale con la Francia. Gli Asburgo, come noto, avevano ceduto l'Ostenau e in compenso entravano in possesso dei due principati vescovili di Trento e Bressanone, secolarizzati, e, questo è il testo della Convenzione, dei loro beni, rendite, diritti e prerogative senza alcuna riserva. Dopo le due brevi parentesi dell'occupazione dei governi bavarese e italico-napoleonico, il Trentino venne riconfermato nella sua interezza nella diretta sovranità degli Asburgo, anche per quei cantoni che erano stati annessi al Dipartimento della Piave durante il periodo napoleonico. Venne riconfermato in forza di un trattato internazionale, come noto, l'atto finale del Congresso di Vienna. Ecco, ancora prima, della fine della firma il 7 aprile 1815 con una propria patente. Francesco I riuniva il Tirolo trans e cisalpino, gli ex principati di Bressanone e di Trento e i municipi trentini ai confini d'Italia in un unico ente territoriale, ente pubblico territoriale, la contea principesca del Tirolo. Il Land Tirol risultava così formato da due parti, quella tirolese, che si era già offerta in libera dedizione da più di 4 secoli agli Asburgo, parte di lingua e cultura austro-tedesca, come il Principato di Bressanone, e quella trentina di lingua e cultura italiana, annessa e conglobata per decisioni esterne con un trattato internazionale. Questi precedenti di fatto. I problemi politici, amministrativi e finanziari per il Trentino, una volta dimessa la sua indipendenza e unito al Tirolo e all'Austria, era un'indipendenza di natura feudale, furono avvertiti e posti subito. Questo mi sembra molto interessante e importante sottolineare, per comprendere poi tutto il problema dell'autonomia, furono posti subito già nel 1802, nel novembre del 1802, prima della firma della Convenzione, e nel gennaio del 1803. Il magistrato di Trento domandava allora all'imperial regio commissario von Bissingen e poi al commissario von Strobel che il Trentino avesse un'amministrazione propria, separata da Innsbruck, con organi propri. Poi il magistrato ripeteva a nome di tutto il paese, i distretti, il Rovereto, tutte le valli, come ricorda nella sua cronaca il Pietrapiana, chiedeva che fosse divisa, queste sono le parole testuali, la provincia meridionale dalla settentrionale, a ciò ognuna regolasse entro il suo circondario le rendite steurali e la sua porzione di agrari, per avere in sostanza un bilancio separato. Chiedeva che venisse istituita a Trento una sede d'appello del Tribunale e precisava che tale soluzione risultava vantaggiosa a questa parte del Tirolo, al Trentino, e precisava ancora che la riteneva giusta, attesa la diversità delle lingue. Autoamministrazione con poteri anche in materia fiscale e sulle entrate e uscite di bilancio, sede d'appello propria per l'amministrazione della giustizia, rispetto della nazionalità, sono questi i 3 temi essenziali intorno ai quali convergerà la più generale questione dei rapporti tra Trentino e Tirolo nel secolo preso in esame. Dopo un biennio, dalla fine del 13 alla metà del 15, nel quale le tendenze centralizzatrici del commissario imperial regio Rosman minacciavano anche la stessa autonomia tirolese, e dopo le energiche reazioni di Innsbruck e di Bolzano contro questi tentativi di centralizzazione, venne pubblicata il 24 marzo 1816 la patente imperiale, che restituiva al paese, almeno in parte, le sue tradizionali e secolari autonomie. Anche storici austriaci, inserisco un'osservazione, io non mi sono dilungato nel dare bibliografia o richiami precisi, espliciti, cosa che si potrà fare evidentemente se nella discussione se saranno richieste, anche storici austriaci giudicarono quella patente del 16, storici tirolesi, vero? Quella patente del 16 come una vittoria del centralismo. Per dire la verità, un giudizio piuttosto eccessivo, ma in quanto essa permetteva la già costituita organizzazione degli stati, l'organo legislativo e amministrativo autonomo. Il giudizio negativo dato su questa patente dipendeva dal fatto che essa restringeva le parte delle autonomie tradizionali e specialmente istituiva un servizio militare nel Regiment der Kaiserjäger, che diventerà poi una delle glorie, va bene, erano militari del Tirolo, era una circoscrizione che non era non era nei secoli precedenti vero prevista e obbligatoria per il Tirolo, che era ancora regolato dal livello del 1511. Delle richieste prospettate del Trentino, ancora nella prima annessione all'Austria e al Tirolo, non ne fu accolta alcuna. Devisi però dire che nel primo periodo di convivenza della parte italiana con quella austro-tedesca e tirolese, tra il 1815 e il 1848, non si ebbe, a nostro avviso, alcun tentativo preordinato di snazionalizzazione. Quel che rimase inascoltato totalmente fu il punto essenziale dell'autonomia per la parte italiana, richiesta che, peraltro, nella prima metà del secolo non fu posta con energia dai trentini, cosa comprensibile se si inquadra nel clima generale dell'assolutismo che non consentiva certo facili espressioni delle aspirazioni popolari. Tuttavia, fu proprio in quel periodo che nel Trentino, prima metà del secolo, fu in quel periodo che nel Trentino si maturarono due condizioni politiche e due valutazioni contrapposte. Una prima di apprezzamento positivo per il tessuto amministrativo, ed una seconda critica e negativa in quanto alla scarsa capacità decisionale riservata al Trentino negli organi autonomi del Land Tirol. La sintesi fra le due strutture generali amministrative dell'Impero d'Austria e lo speciale ordinamento del Tirolo, dotato di poteri legislativi e amministrativi, favorì la conservazione e lo sviluppo di un ampio decentramento che era realmente sostanziale, poiché più si scendeva dal vertice verso la base e più si faceva spazio ai poteri decisionali locali e alla diretta partecipazione popolare. Esempio significativo è quello dei comuni, che furono restituiti nel numero e nelle competenze proprie, così come erano prima dell'accentramento e gerarchizzazione imposti nel periodo napoleonico e già in parte anche in quello bavarese. Tra i capi comune e i podestà delle due città di Trento e Rovereto e il vertice politico e amministrativo di Innsbruck erano inseriti organi ed uffici mediani. Prima i due capitanati circolari di Trento e di Rovereto, poi, come si vedrà, la sezione di luogotenenza, la sezione di Trento della nuova tenenza di Innsbruck, e poi i capitanati distrettuali e i distretti giudiziari corrispondenti a valli o a zone geograficamente e storicamente individuate. Macchinoso forse, se si vuole, questo ordinamento amministrativo, ma più sulla carta che nella realtà. La burocrazia semplice e precisa consentiva, con l'avvicinamento degli uffici alla popolazione, di creare tra i primi e la seconda contatti e rapporti facili, rapidi e fiduciosi per le pratiche correnti. Questo sistema di ampio decentramento, anche nelle sue riforme successive, fino all'ultima, che ripartiva il territorio in capitanati distrettuali e in distretti giudiziari, quella dopo il 68 che rimase di fatto inalterata fino al 1815, nel Trentino erano 8 capitanati distrettuali e 26 distretti giudiziari, questo sistema, dico, e il fatto che gli impiegati e i funzionari erano in via di massima del luogo e di madrelingua italiana e comunque buoni conoscitori della stessa, dava realmente alla popolazione la sensazione di auto-amministrarsi. Fu questa esperienza, connessa a quella dell'autonomia legislativa, che, indipendentemente dalla questione e poi dal conflitto nazionale, rimase come un ricordo positivo nella popolazione trentina e costituì la base della richiesta sostenuta da tutti gli uomini politici di tutti i partiti trentini, anche dopo l'annessione all'Italia, perché alle nuove province, come si diceva allora, fossero conservati i loro ordinamenti speciali. Ma il Regno d'Italia non aveva esperienze storiche analoghe. Ritirata dopo la morte di Cavour, che le aveva appoggiate le proposte di legge Minghetti-Farina per un ampio decentramento regionale, fu adottata, come noto, la soluzione centralistica. Solo il Giolitti, mi piace ricordarlo in questa sede, nel 1921 intuì che era opportuno trarre esperienza, sono parole quasi sue, tolte dai resoconti della Camera, quasi trarre esperienza dagli ordinamenti amministrativi dei quali le nuove province annesse godevano nella monarchia asburgica, non solo per non turbarli, diceva i Giolitti, ma per esaminare se fosse opportuno estenderli a tutta Italia. A quel quadro di ampio decentramento, che noi abbiamo appena delineato, va aggiunto lo speciale ordinamento dell'Antirol, con il singolare organo legislativo degli stati provinciali, fino al 1861, alla patente del 26 febbraio, con annesso lo statuto, e poi della dieta. Vecchio di secoli, questo organismo degli stati provinciali è anacronistico nei suoi criteri di rappresentanza, corrispondenti ancora alle divisioni feudali di clero, nobili, borghesi, e poi, dall'epoca di Massimiliano, anche aveva la rappresentanza dei contadini, vero? Esso costituì tuttavia un centro di partecipazione allargata per il governo del paese, specialmente in momenti eccezionali, come ad esempio nel 1526, dopo la guerra rustica. Richiamato in vita, come si è detto, con la patente del 1816, nella sua composizione di classi, rimase ancorato al passato e anche nella disparità di rappresentanze. Il Trentino vi era rappresentato soltanto con 10 deputati su 52, mi pare di ricordare, mentre il rapporto tra la popolazione di lingua tedesca e la popolazione di lingua italiana avrebbe voluto, se fosse stato un rapporto proporzionale, un numero molto maggiore di deputati trentini alla dieta. Dicevo, ancorato al passato e anche nelle disparità di rappresentanza, ma in quella patente ne furono fissati con chiarezza giuridica e costituzionale poteri e materie di competenza. Tra queste materie di competenza provinciale, quelle che oggi troviamo negli statuti speciali delle regioni a statuto speciale e anche nelle regioni a statuto ordinario della nostra Costituzione, che si ricordava l'altro giorno da parte dell'onorevole Chessere, in parte ha già adottato l'ordinamento regionalistico, diceva Ambrosini, che il nostro Stato non è più né uno Stato unitario né uno Stato federale, ma è uno Stato regionale. Ecco, tra queste materie di competenza provinciale, alcune erano rilevanti: la nomina degli impiegati, l'ordinamento e la tutela delle amministrazioni comunali, il patrimonio forestale, l'amministrazione del fondo di approvvigionamento, che fu una dei motivi, una delle cause di una querela, davvero decennale, tra Trentino e Tirolo. Il fondo di approvvigionamento era stato istituito subito dopo la carestia del 16, riconfermato con legge dell'impero nel 1826, e consisteva in una addizionale sull'importazione di grani, però nel Tirolo era addizionale che veniva accantonata a costituire un cospicuo e rilevante fondo che inizialmente avrebbe dovuto essere destinato soltanto a interventi in caso di necessità, mancanza di approvvigionamenti, difficoltà di approvvigionamenti, carestie, eccetera, ma che poi crescendo anche in via per l'accumulo degli interessi finì per essere un fondo che venne utilizzato anche per lavori pubblici, però per calamità, per interventi, e qui la querela consisteva nel semplice fatto, una cosa non nuova, è abbastanza usuale: io pago di più, ricevo di meno, tu paghi di meno, ricevi di più, ed è stata una querela che è andata avanti, vorrei dire, fino alla fine. Ne parla ancora il Battisti, ne parla il Salvadori, direi tutti gli uomini politici, a cominciare dal 1848, la Prato, il Malpaga, il Clementi, nelle loro pubblicazioni dell'epoca. Ma dicevo, dunque, amministrazione del fondo di approvvigionamento, istituti di assicurazione di credito di interesse provinciale, tutte competenze che la dieta del Tirolo ha poi largamente utilizzato, vero, per creare questi non solo istituti di credito, ma istituti di assicurazione, specialmente contro gli incendi, però di interesse, evidentemente di largo interesse per la popolazione rurale. Attuazione locale dell'ordinamento scolastico. Attuazione locale dell'ordinamento scolastico. E persino il diritto di recepire i provvedimenti militari del governo in quanto questi interessassero il Tirolo. Era questo un pacchetto di competenze, uso questo termine che è entrato da abbastanza divenuto comune in quest'ultimo decennio, era questo un pacchetto di competenze non trascurabile, specie se si tiene conto delle tendenze assolutistiche e meticolosamente personalizzanti di Francesco I. E va riconosciuto che l'esercizio dei poteri attribuiti realizzava in misura non indifferente per i tempi una vera e propria forma di autogoverno. Il Trentino aveva anch'esso rappresentanza negli stati provinciali e nella dieta tirolese da secoli addietro ed aveva avuto perciò esperienza di quel tipo di autonomia, che vorremmo chiamare autonomia storica per distinguerla dalla autonomia nazionale, la quale ultima autonomia nazionale nasce sulla prima o si propone quando una minoranza conglobata in uno Stato plurinazionale o eteronazionale ravvisi ed ottenga negli strumenti dell'autogoverno e dell'autoamministrazione la tutela e le garanzie giuridico-costituzionali per la propria permanenza, difesa e sviluppo. Questo tipo di autonomia storica fu quello che il Trentino apprezzò e rivendicò anche dopo la sua annessione all'Italia, così come tirolesi e sudtirolesi l'avevano rivendicata, come ho accennato, negli anni 14 e 15 nei confronti dell'Austria. Ci furono delle deputazioni da Innsbruck e anche da Bolzano, e anche con delle parole ferme si richiamava addirittura l'esperienza di Andrea Hofer e si diceva: noi abbiamo preso le armi per difendere la nostra autonomia contro i francesi, all'epoca di Andrea Hofer, contro i francesi, contro i bavaresi. Beh, non era proprio una minaccia, ma si capiva che si lasciava intendere che i tirolesi avrebbero magari rifatto la stessa cosa anche contro l'Austria e contro gli Asburgo se non avessero avuto il riconoscimento delle loro secolari autonomie. E né nell'uno né nell'altro caso, ovvero né per il Trentino dopo la seconda guerra, dopo la prima guerra mondiale, né per il Tirolo del 14-15, né nell'uno né nell'altro caso l'autonomia era richiesta in funzione della difesa della nazionalità, ma per se stessa in quanto speciale status giuridico al quale non si intendeva rinunciare. In questo senso si può parlare di una comunanza politica fra Trentino e Tirolo e di consenso delle popolazioni trentine e di apprezzamento per l'ordinamento amministrativo vigente nella monarchia asburgica e nell'Antirolo. Parallelamente però, in tutto il secolo 1815-1915 nasce dal Trentino un profondo dissenso sul come l'autonomia tirolese veniva gestita, sulla non equa attribuzione dei mandati nella dieta provinciale, anche con la patente del 61, proporzionalmente il numero dei deputati dietali trentini era inferiore a quello che era il rapporto proporzionale tra le due popolazioni, di poco però inferiore, di poco. E sulla ripartizione, l'attribuzione dei mandati nella dieta provinciale, sulla ripartizione tra zona italiana e zona tirolese delle entrate e delle spese ordinarie e straordinarie di bilancio, sul centralismo di Innsbruck che si diceva andava a beneficio e vantaggio del Nord Tirol e a scapito invece della parte italiana. La somma delle doglianze sfociò dal 1848 in poi nella formale richiesta di un'autonomia separata per la parte italiana, richiesta avanzata in tutte le sedi competenti, a cominciare addirittura dalla costituente di Francoforte, alla costituente di Vienna Krems e alla dieta provinciale di Innsbruck. Mi si scusi, evidentemente non è fatto questa precisazione nei confronti vero, dei colleghi, ma di altri che non fossero abituati a questa terminologia. Io continuo a ripetere dieta provinciale, vero, così come è la traduzione dal tedesco, ma per intenderci noi dovremmo parlare piuttosto di dieta regionale, perché questa dieta provinciale si estendeva al Tirolo del Nord, al Südtirol e anche al Trentino, vero? Ma mantengo questo termine. sfociò, dico, nella richiesta di un'autonomia separata per la parte italiana, richiesta avanzata in tutte le sedi competenti e largamente e coscientemente appoggiata dalla popolazione, dalle amministrazioni comunali e dalle correnti politiche attraverso ripetute petizioni che raccoglievano decine di migliaia di firme, la prima di 46.000 firme. La dottoressa Mazzo ha fatto il suo dottorato, ero occupandosi a Salisburgo, penso con il professor Fellner, se mi ricordo bene, della petizione del 48, ha osservato che molte di queste firme provengono da appartenenti a delle classi medio borghesi. Questo è anche vero, però in una popolazione così ristretta come era quella del Trentino, la raccolta di 46.000 firme penso possa effettivamente convalidare il giudizio che si trattava di una richiesta largamente condivisa da tutta la popolazione. Comunque sono questi precedenti sui quali non ci tratteniamo. Ciò che sembra di dover rilevare è invece che la richiesta dell'autonomia separata, anche se diverrà dal 48 in poi una battaglia di carattere nazionale, nasce e si innesta su concrete motivazioni di natura economica e finanziaria, di adeguato utilizzo delle entrate di bilancio, nell'intento di poter meglio disporre degli organi e uffici e dell'intervento finanziario degli enti pubblici ai fini dello sviluppo economico e sociale del Trentino. Questo ancoraggio alla realtà concreta, economica e amministrativa rende ragione del perché la richiesta dell'autonomia separata fosse condivisa anche da una larga base popolare e come questa stessa concordasse con i deputati dietali trentini quando una volta eletti, anche dopo il 61, praticavano la politica dell'astensione dai lavori dalla dieta tirolese. Le prime pubblicazioni in materia di autonomia separata, che escono numerose intorno al 1848 e negli anni immediatamente successivi, e i non pochi memoriali rimessi dai deputati dietali alla dieta, dai deputati al Reichsrat, fino a quello ultimo del 1898 diretto al presidente dei ministri Francesco Thun, numerosissimi che mi si consenta di non citarli perché dovrei fare un elenco pressoché interminabile, tutti insistono principalmente più che sugli aspetti nazionali della questione, su quelli amministrativi, finanziari, fiscali ed economici, con abbondanza di dati e di cifre. Nella realtà, pur riesaminata con animo sereno, alcune di quelle doglianze non erano infondate. Prima fra tutte, ne ho già accennato, quella riguardante la ripartizione di seggi nella dieta tirolese che non rispettava la proporzione tra le due popolazioni. Non solo nel primo periodo, quando vigeva ancora il sistema medievale degli stati provinciali, ma neppure dopo l'entrata in vigore dello statuto provinciale, lo chiamo così per adeguarlo alla nostra terminologia, però per la principesca contea del Tirolo, annesso alla patente imperiale del 26 febbraio 1861, che aperse nell'impero l'epoca della vita costituzionale. La crisi dei rapporti tra parte italiana e parte tedesca del Tirolo andrò oltre il periodo del neoassolutismo e si distese in forma rigida almeno sino al 1871, quando ad iniziativa del Partito Cattolico Trentino fu parzialmente abbandonata la politica dell'astensionismo. Era il tempo quello, tra il 1868-1874, in cui si debattevano in Parlamento a Vienna le proposte di leggi confessionali, contro le quali resisteva la dieta tirolese, invocando proprio quelle materie e quelle competenze della patente del 16 e poi del 61, quelle riguardanti l'adattamento delle leggi generali all'istruzione scolastica locale. Era di quel tempo in cui la dieta tirolese resisteva, la dieta che era, da un punto di vista politico, ancorata nella sua maggioranza al tradizionale sistema di rapporti tra Stato e Chiesa. Sono stati questi anni, tra il 68 e il 74, dal mio punto di vista, gli anni più brillanti della politica interna austriaca. quando noi parliamo di un'Austria clericale, come è d'uso, dovremmo secondo me rivedere largamente questo giudizio. L'Austria è stato uno Stato più liberale e più laico di quanto lo sia diventato poi l'Italia, alla quale da parte austriaca si faceva il rimprovero di essere un'Italia che disconosce i diritti della Chiesa, eccetera, o ossequio formale nei confronti della gerarchia ecclesiastica. Questo l'Austria l'aveva senza dubbio. Bene, dico, i cattolici trentini credettero allora loro dovere, su esplicito richiamo del vescovo Ricabona von Reichenfels, di non più disertare la dieta tirolese per concorrere a difendere le prerogative che la Chiesa aveva, specie in materia scolastica. E qui si è interrotto anche, fu determinante questo fatto, perché provocò una aperta scissione anche organizzativa tra liberali e cattolici, che fino a quel momento, almeno per la politica regionale, per la politica nei confronti della dieta, avevano mantenuto una unità non solo di giudizi, ma anche un'unità di comportamento. Il fatto fu, dicevo, determinante, vero? Vero. Anche se poi il Partito Cattolico Trentino e i suoi deputati rimasero concordi con la corrente liberale, e poi, quando si inserì anche questa, con la corrente socialista, nella richiesta fondamentale dell'autonomia separata. Sembrò per un momento questa richiesta aver fatto un passo in avanti verso la soluzione desiderata dal Trentino, quando nel 1868, attuata la completa separazione dell'amministrazione politica da quella giudiziaria, che era già stata prevista con la legge del 54, ma che non era poi stata attuata, le competenze politico-amministrative furono attribuite alla luogotenenza di Innsbruck come organo supremo del Land, e a Trento venne istituita una sezione di luogotenenza dalla quale dipendevano i già ricordati distretti politici retti dai capitani distrettuali. Era una soluzione mediana, che non modificava quella che era la Costituzione del Land, ma che era rivolta ad accettare le richieste di una certa maggior agibilità della parte italiana del Tirolo. Ma respinta nel 77 decisamente una nuova richiesta, fatta questa volta dal Reichsrat e presentata nel 74 dalla Prato, da Giovanni a Prato, la richiesta di attivare in Trento una dieta per la parte italiana del Tirolo, anche la sezione di luogotenenza fu poi soppressa nel 1896. Fu la decisione parlamentare del 77 una grave delusione per il Trentino, e massimamente per il Partito Liberale, che nel vivo della lotta tra centralismo e federalismo per le elezioni dirette al Parlamento, i due termini hanno questo significato, vero? O per le elezioni dirette o per la conservazione del sistema delle elezioni indirette tramite le diete dei Länder, il Partito Liberale si era pronunciato decisamente a favore del centralismo, nella fiducia che un Parlamento come quello viennese, rappresentante una società plurinazionale e di apertura europea, fosse idoneo e capace a sciogliere una questione che nel chiuso della provincia tirolese minacciava ormai di essere degradata soltanto ad una contesa locale. Ma Vienna difficilmente avrebbe potuto scegliere la via auspicata dal Trentino senza innescare una reazione a catena in tutti gli altri regni e paesi di nazionalità mista. Né va sottovalutato il fatto che dopo la guerra del 66 il pericolo corso dalla monarchia, le perdite territoriali subite in Italia, i primi accenni dell'irredentismo, la questione dell'autonomia separata per la parte italiana del Tirolo era esbordata dai suoi confini amministrativi ed economici ed era stata più chiaramente e direttamente coinvolta nella più generale e passionale questione nazionale. Proprio nel 66 c'è un accenno in un verbale della conferenza dei ministri, vero, in cui sarebbe proprio il caso di dire che anche abbaia non morde mai, in cui c'è la decisione di prendere delle misure contro l'elemento italiano, ovvero delle province ancora soggette, vero, alla monarchia asburgica. Ho già detto, e dovrò ripeterlo, mi pare opportuno e necessario, che non forme di programmata nazionalizzazione, vero, programmata nazionalizzazione da parte del governo, non ci furono se non alla fine del periodo dello scontro fra irredentismo da una parte e pangermanesimo dall'altra. Ma questo può essere importante. La questione, anche se la questione nazionale e questione dell'autonomia separata furono strettamente connesse fin dal 1848, non solo nel giudizio e nelle conseguenti preoccupazioni di Innsbruck e di Vienna, ma anche nei disegni politici degli uomini trentini, e ripeto, basterebbe pensare all'azione di Giovanni a Prato da Francoforte nel 48 fino al 74, quando fu costretto a dimettersi per le questioni commesse con le leggi confessionali. Noi non crediamo che con riguardo al tema generale del convegno si debba seguire questa via d'indagine, anche perché è stata ampiamente battuta e ribattuta dalla storiografia tradizionale. Pare comunque di poter dire che fino allo scontro con il pangermanesimo, che trovò peraltro un fertile terreno nel Tirolo, il Trentino non fu sottoposto a violazioni programmate a livello di governi dei suoi diritti nazionali. Deviazioni occasionali e marginali che obiettivamente devono si ammettere, non hanno, a nostro avviso, rilevanza sul giudizio globale. Forse meno noto, e perciò meritevole che se ne faccia qui un rapido cenno, è il fatto che la questione nazionale, che era difficile pensare di poter contenere o spegnere nel generale clima politico europeo della seconda metà del secolo scorso e degli inizi di questo, la questione nazionale ebbe i suoi riflessi non soltanto sulla questione dell'autonomia separata e sull'ordinamento amministrativo territoriale interno al Land, ma ebbe dirette ripercussioni anche nell'organizzazione ecclesiastica e provocò progetti di variazione delle circoscrizioni diocesane. Quel problema che fu risolto nel 64 attraverso l'ultima Costituzione Vaticana. La difficoltà dei rapporti nell'ordinamento amministrativo tra la parte italiana e la parte tedesca del Tirolo, credo di riuscire a stare nei limiti, trasferita sul piano dell'ordinamento delle diocesi, provocò l'insorgere della questione dei decanati di lingua tedesca appartenenti alla diocesi di Trento. E non è privo di interesse rilevare che in tale questione i poteri politici a Vienna e ad Innsbruck e le due curie vescovili di Trento e Bressanone, l'una interessata per l'eventuale cessione dei decanati, l'altra per l'eventuale aggregazione, batterono in due tempi diversi due vie diametralmente opposte. Da atti d'archivio che abbiamo potuto conoscere solo recentemente e che dobbiamo ancora esplorare con maggior intento critico, ma mi pare ormai di poterne trarre queste conclusioni, nel marzo del 1866 era il luogotenente di Innsbruck che si rivolgeva al vescovo di Trento, 1866, che si rivolgeva al vescovo di Trento sollecitandolo a nome del governo a dare il suo assenso per trasferire i decanati di lingua tedesca alla diocesi di Bressanone al fine di impedire, sono parole della lettera, la penetrazione dell'elemento italiano nel Tirolo tedesco. E il vescovo Riccabona, che era un portatore della corrente lealistica, il vescovo, anche se ebbe una delle sue pastorali sequestrate, il vescovo Riccabona resisteva alla proposta, oltre che per motivi ovvi di governo pastorale, anche perché riteneva la separazione inopportuna politicamente, parole sue, non vedendo con ciò trattenuta la penetrazione dell'elemento italiano, ma al contrario espulso completamente l'elemento tedesco dal Tirolo italiano. Nel 1913 è il vescovo Celestino Endrici che, come risulta da una minuta di lettera al Santo Padre, che io ho citato in un mio lavoro, in questo paio d'anni, propone l'unione dei decanati di lingua tedesca alla diocesi di Bresanone, ma rileva le difficoltà che provenivano dai circoli clericali politici tirolesi, sono parole sue, i quali temono per l'unità politica del Tirolo e considerano il vincolo ecclesiastico bilingue come un buon mezzo per raggiungere i loro scopi politici. Completamente rovesciate le posizioni delle due parti. Una indagine più completa potrebbe mettere in luce se questo passo fatto dal governo nel marzo del 66 era in previsione dell'opportunità, nel 68 abbiamo detto entra in attività la sezione di nuovo tenenza, era in previsione dell'opportunità di far coincidere, che questo era stato il vecchio criterio da Giuseppe II a Francesco I, seguito dal Metternich, nella prima metà del secolo scorso, di far coincidere le circoscrizioni ecclesiastiche con le circoscrizioni territoriali. Parlare di rapporti tra potere centrale e amministrazioni locali in riguardo al Trentino, incluso come era questo nell'Antirol, riteniamo che debba avere un'impostazione di metodo e di sostanza diversa da quella che è correttamente posta per le altre province italiane soggette all'Austria. Per il Tirolo, e congiuntamente per il Trentino, l'Istituto dell'Autonomia Provinciale ha prioritaria rilevanza nell'amministrazione locale, come non poteva avere né nel Lombardo-Veneto, che era un conglomerato nato ex novo e senza tradizioni secolari come quelle del Tirolo, né nel Küstenland frazionato, ci è stato detto proprio ieri, come era stato nelle sue singole componenti. Perciò, per quanto riguarda Tirolo e Trentino, non si può trascurare che di diritto e di fatto, tra il potere centrale e le amministrazioni locali in quanto organi od uffici periferici del primo, si inseriva questo terzo termine medio, quello dei poteri legislativi e amministrativi autonomi propri del Land. E se osserviamo questi poteri e competenze, come sono precisate nello statuto provinciale del 61, annesso alla patente del 26 febbraio, che restò in vigore fino al 15, fatta eccezione per il regolamento elettorale, che venne modificandosi via via con le riforme elettorali del 96 e del 6, e questo terzo termine, dico, si inseriva un terzo termine, se ne deve dedurre che per le materie di primaria importanza nella concretezza della realtà economica ed amministrativa esisteva una larghissima autonomia decisionale sul piano legislativo ed amministrativo. Vale la pena, crediamo, di riassumere sinteticamente i paragrafi dal 16 al 25 dello Statuto del 61. Essi attribuiscono alla dieta provinciale, che ha sostituito i vecchi stati provinciali, innanzitutto il diritto di proposta e di collaborazione con il governo centrale per le leggi che avessero interesse anche nell'anno. Il diritto di recepire le leggi generali, e lo sappiamo che il diritto di recepire significa anche il diritto di non recepire. Quella è stata poi l'avvertenza del 68 proprio in materia scolastica. L'esercizio di potestà amministrative in quelle materie attribuite alle potestà legislative. Oltre a questo, la dieta poteva legiferare in materia di agricoltura, lavori pubblici di interesse provinciale, istituti di beneficenza. Stiamo proprio facendo e di assistenza a un'ampia ricerca che ha dato dei risultati interessantissimi su quello che è stato l'intervento provinciale del Tirolo in materia di assistenza intesa, assistenza e previdenza con un senso di modernità come lo intendiamo noi oggi, non soltanto di carità. Istituti di beneficenza, bilancio, difesa del paese. Accanto a queste che erano le potestà primarie, la dieta aveva anche altre potestà secondarie o concorrenti, cioè di tre livelli, leggi di tre dignità, giuridica, entro i limiti delle leggi generali in materia di ordinamento dei comuni, di culto e di pubblica istruzione. In questo quadro giuridico, se il Trentino non godeva di una propria autonomia separata, godeva di quella comune del Tirolo e perciò di una autoamministrazione locale nelle materie di più largo e diretto interesse della generalità della popolazione. Tuttavia, la sua condizione minoritaria nella dieta provinciale, aggravata dal congegno elettorale, ed il conflitto nazionale ormai apertosi dichiaratamente dopo il 48, non resero possibile al Trentino di fruire adeguatamente di quel terzo termine medio che stava tra potere centrale e amministrazione statale periferica. Ci hanno un po' di pazienza, sono arrivato alla fine. No, ma perché non voglio uscire dai termini di tempo. Per questo motivo l'azione politica del Trentino aveva spostato il suo asse dal federalismo al centralismo parlamentare e aveva sperato di trovare nella Camera dei Deputati a Vienna una sede più idonea al discorso delle nazionalità ed un organo più liberale e più aperto a collocare i conflitti nazionali dei Länder mistilingui o eteronazionali nel quadro più importante della libertà e del progresso. E piace osservare, anzi ci deve osservare a questo proposito, che nonostante le delusioni subite a riguardo della questione dell'autonomia separata, i deputati trentini alla Reichsrat mantennero la loro collaborazione e non soltanto la loro presenza formale. Beh, a cominciare dalla costituente del 48 a Francoforte, a quella di Vienna e via via, partecipando a proposte di legge, la riforma, l'abolizione dei pesi del suolo, che è stata condotta come referente da un deputato trentino, il De Pretis, la Prato, che aveva fatto delle proposte in materia di istruzione popolare, di assistenza agli emigranti, di rieducazione e di riadattamento, di reinserimento degli emigranti una volta che fossero ritornati nei paesi di origine. Veramente fu una collaborazione attiva, non soltanto una presenza formale. Vero? E perché in quel Parlamento essi ravvisavano, nonostante molte riserve che su di esso si potevano fare, per due motivi principalmente: per il sistema con cui era eletto e per le sue limitate sfere di competenza, perché nella Costituzione il Parlamento non era il centro della vita politica dell'impero, il centro era sempre rimasta la corte, vero? Per questo è un po' difficile parlare di un regime parlamentare, di un regime costituzionale, ogni volta bisognerebbe fare delle lunghe considerazioni in materia. Vedevano, dico, nel Parlamento un organo, vero, nonostante queste riserve che su di esso si potevano fare, è un organo di grande valore e ne intuivano il valore europeo di questo Parlamento vienese. Qui il discorso verrebbe facile, ma troppo spesso si fa, e il pensiero ricorre subito a De Gasperi. Il pensiero ricorre a De Gasperi, ma non è solo De Gasperi, vero, che ha riportato dalla vita parlamentare a Vienna e questa capacità di vedere i problemi, non soltanto nella Mitteleuropa, ma sul piano europeo. È stato illustrato in un lavoro su Riccabona, su Vittorio Riccabona, non sul deputato liberale al Reichsrat, non sul vescovo di prima, e questa concezione che proprio il Parlamento vienese poteva rappresentare quello che era il futuro di una collaborazione, di tipo europeo. E anche il Riccabona, in quel suo discorso inedito, accenna addirittura alla funzione mediatrice che avrebbe potuto avere tra l'Oriente, il grande mondo degli slavi, e l'Occidente. Ecco, e una uguale partecipazione da parte dei deputati trentini alla dieta di Innsbruck non si ebbe. Non si ebbe non solo nel periodo dell'astensione, dell'astensionismo, ma non si ebbe neanche successivamente, era una conseguenza appunto del conflitto interno al Land, non solo e non tanto per la questione nazionale, ma per quella dell'autonomia. Tuttavia, pare a noi, per non trascurare alcun aspetto della intricata questione, di dover porre nel loro giusto rilievo alcuni fatti che la storiografia di stampo tradizionale, nostra, trentina, italiana, ma anche in parte tirolese, non ha dato sufficientemente, vero, il rilievo che sarebbe di interesse proprio da parte tirolese, vero. E non ha dato il giusto rilievo ad alcuni fatti, dico, vero, o li ha ignorati o sottovalutati. Se la dieta tirolese, e in ultima analisi anche il governo centrale, erano rimasti irrigiditi nel non voler modificare in nessun modo il quadro giuridico costituzionale dell'Antirol, non vi era stata nel 16 una struttura di subautonomie, come, non per fare della polemica, ma per fare un esempio, abbiamo noi oggi nello statuto della regione Trentino Alto Adige, entro la quale, oltre all'autonomia regionale, esistono le due autonomie provinciali del Tirolo e, vero, del Trentino. Non c'era allora, e non c'era stata neppure conseguentemente una riforma in tal senso. Ecco, nonostante questo immobilismo rigido, però, nel non accettare proposte di modificazione del testo costituzionale, né la prassi legislativa e amministrativa, la dieta tentò, ha fatta sempre salva l'unità del Tirolo, che era veramente, davvero per i tirolesi, una realtà in cui credevano e alla quale partecipavano anche passionalmente. In più di un tentò, e in più di un caso lo poté fare, di accogliere le istanze trentine per avere istituzioni ed istituti propri e separati e con ciò più agibili e meglio corrispondenti ai bisogni del paese. Ci riferiamo in particolare a tre che riguardano il mondo rurale, il mondo contadino. Anche questo ha un significato politico, ero di conduzione politica. Alla società agraria trentina del 1832, che doveva essere una sezione trentina della società agraria tirolese e che di fatto agì fino al 43 come autonoma, all'istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige, che per il Trentino, vero, sul piano economico, fu veramente uno dei centri essenziali, vero, dello sviluppo, vero, che del 1874 eretto con beni immobili e con finanziamento del Land, con una legge, vero, della dieta, e al Consiglio dell'Agricoltura. Ecco, qui entra in campo anche l'orientamento di Jena, il Consiglio dell'Agricoltura, che unico in tutti i Länder, non fu indiviso nel Tirolo, ma fu fondato dal governo sin dal suo inizio nel 1881 in due sezioni affatto indipendenti tra di loro. Vero è che dagli esempi citati si può constatare che i provvedimenti di legge istitutivi sono tutti rivolti a vantaggio della popolazione contadina. Cura particolare ad essa poneva il conservatorismo tirolese, e questo fu certamente una delle cause per le quali il mondo rurale mantenne più a lungo un atteggiamento lealistico. Mentre invece borghesia cittadina e quel poco di operaiato che era nel Trentino sentirono maggiormente il richiamo nazionale e le speranze di un rinnovamento sociale attraverso il liberalismo, il primo, e attraverso la socialdemocrazia, il secondo. Infine, e da ultimo, sempre in tema di potere centrale e amministrazioni locali, ci sembra di dover richiamare l'attenzione sul ruolo, non sulla esistenza, perché queste esistevano anche in altri Länder, Trieste per esempio, vero? Sul ruolo che le città con proprio statuto, Trento e Rovereto, ebbero nella vita del Trentino nel secolo XIX. Della loro autonomia, limitata ma non irrilevante, esse vantavano radici sicure sin dall'inizio del secolo XVI. Conservate quelle loro prerogative, se le videro, non senza difficoltà per dire il vero, riconosciute in attuazione di una legge imperiale. Rovereto nel 1869, riconosciute per l'ultima volta, di fatto esistevano e erano anche ammesse. Trento nel 1888. Ma si trattava di una regolarizzazione giuridica, non di attribuzioni ex novo di poteri e di competenze. Tre righe della legge imperiale, capoluoghi di provincia e su richiesta anche altre importanti città. Trento non era di capoluogo di provincia e tantomeno Rovereto, però capoluogo di provincia era solo Innsbruck. Capoluoghi di provincia e su richiesta anche altre importanti città possono ottenere con leggi provinciali statuti propri, in quanto non li possiedano già. Era questo un ulteriore elemento introdotto nel tessuto amministrativo esaltante le autonomie storiche locali. Né, e qui ho finito, si noti bene, si trattava solo di una questione di prestigio, anche se con la figura del podestà di queste città autonome alla figura era connesso un grande prestigio che faceva valere persino nell'ordine delle precedenze. Sembra ben di essere ritornati al congresso di Vienna, ma comunque aveva importanza anche quello, vero? Rovereto, per esempio, voleva precedere quello che era il capitano distrettuale, la stessa autorità politica, vero? Emanazione dei poteri centrali, era subordinata a quello che era il prestigio e la figura del podestà cittadino. Non era soltanto di prestigio, era veramente di sostanza. Ecco, e se ne ebbe una prova, non posso esplicare, ma certo in quel momento fu eccezionale per la vita del Trentino, è stato chiamato il miracolo economico, vero? Se ne ebbe una prova, oltre che più volte sul piano politico, si pensi solo al diritto di queste città di darsi delle norme elettorali proprie, anche sul piano economico e di iniziativa finanziaria, quando per esempio fu la città di Trento, proprio sul finire del secolo XIX, tra il 91 e il 93, la città di Trento ad affrontare il grosso problema, a stendere i progetti, a condurre a termine la realizzazione del piano di costruzione di tranvie a trazione elettrica, che non era soltanto di interesse cittadino, ma che allargava il suo interesse e la sua estensione a tutta quanta la parte italiana, la parte meridionale del Tirolo. Ci furono remore ed opposizioni dalla parte tedesca del Tirolo, ma i poteri anche in materia di iniziativa finanziaria, iniziativa di credito, vero, furono tali, e anche la capacità, allora Trento aveva veramente uno stato di uomini che desidereremo avere in ogni momento. Signori, vi domando scusa se sono stato troppo lungo e troppo minuzioso. Ma vorrei ringraziare a nome di tutti l'illustre collega ed amico Quasini per la sua magistrale e brillante conferenza, che deve trovare in special modo interesse in questo luogo. Allora, facciamo adesso un piccolo intervallo e cominciamo di nuovo alle 10:25 precise per fare i nuovi.